Essere e benessere di Nicoletta Carbone. C'è una competenza che deve da una parte essere appresa e dall'altra affidarsi ad una predisposizione innata di cui noi umani e solo noi umani siamo dotati, il linguaggio. Buongiorno da Nicoletta, oggi parliamo proprio di linguaggio. Comprendere come il nostro cervello si attiva e si organizza per metterci a disposizione la parola, che diventa strumento poi di relazione e comunicazione, è una delle sfide più affascinanti che la scienza sta cercando di affrontare in questi ultimi anni. Le risposte non sono semplici perché molte diverse discipline e specialisti devono collaborare e contribuire per trovare la soluzione, ma noi ci proveremo oggi insieme ai nostri ospiti, con cui scopriremo le basi e i meccanismi fisiologici che regolano la nostra capacità di trasformare i suoni in parole e gli effetti che ne derivano o gli eventuali problemi che possono nascere. Vi presento subito i nostri ospiti: il professor Stefano Cappa, docente di neuropsicologia presso l'Università Vita Salute San Raffaele. Buongiorno professore. Buongiorno. E il professor Andrea Moro, ordinario di linguistica generale alla Scuola Superiore Universitaria IUS di Pavia. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Allora, due esperti che ci condurranno nel territorio della neurolinguistica. È una disciplina che unisce due mondi che sembrano all'apparenza molto lontani, la neurologia e la linguistica, ma scopriremo proprio nel corso della trasmissione che sono due mondi che collaborano, si alimentano reciprocamente. Professor Moro, proviamo a farlo subito. Ci aiuti un po' lei a capire come una disciplina umanistica riesce a trasformarsi in materia scientifica. Sì, il salto di qualità è stato verso la metà del Novecento, quando i linguisti hanno iniziato a concentrarsi su una capacità umana e solo umana, che è quella di mettere insieme le parole secondo schemi infiniti e generare delle frasi. A quel punto circolavano teorie matematiche molto interessanti, quelle che venivano utilizzate per iniziare a costruire i calcolatori che poi avrebbero dato luogo a quella rivoluzione informatica che sappiamo, e sono emerse alcune proprietà che rimanevano nascoste nelle grammatiche delle lingue del mondo. Sono sostanzialmente tre tipi di cose che hanno portato a, come dice lei, a questo salto da una, diciamo, un'osservazione di tipo umanistico, filosofico, a uno di tipo scientifico. Da una parte si è visto, applicando queste regole matematiche, che tutte le lingue del mondo hanno una specie di nucleo di regole comuni, sì, invarianti. La seconda cosa è stato il fatto che, osservando l'apprendimento del linguaggio nei bambini, si è visto che soltanto alcuni tipi di errori vengono fatti, cioè di tutti gli errori che uno può pensare, soltanto una certa famiglia di errori viene effettuata dai bambini. E da ultimo, in un certo senso legato alle prime due scoperte, si è visto che se noi ci mettiamo a tavolino e cerchiamo di inventare delle grammatiche, possiamo farne di tutti i tipi, per gioco, copiando grammatiche esistenti o meno, scopriamo che ci sono alcuni tipi di grammatiche, in particolare alcuni tipi di sintassi, cioè proprio quelle composizioni di parole, che non si trovano mai in nessuna lingua al mondo. Questi tre fenomeni, le regole comuni, gli errori e l'assenza di alcuni tipi di regole, hanno fatto scattare, per così dire, questa rivoluzione, e si è iniziato a ipotizzare, come diceva lei, che il linguaggio non fosse semplicemente una convenzione arbitraria, ma avesse una base biologica. Quindi, professor Cappa, in pratica ci deve essere qualcosa dentro al nostro cervello capace di spiegare la parola. È giusto pensare al linguaggio come ad una componente della struttura stessa del cervello? Beh, certamente, diciamo che tutti gli strumenti necessari per realizzare e utilizzare il linguaggio, cioè parlare, comprendere, eccetera, dipendono dal corretto funzionamento di numerose strutture cerebrali, soprattutto della corteccia cerebrale dell'emisfero di sinistra, ma non solo, anche di altre aree connesse. È un sistema complesso che abbiamo potuto studiare in molti modi, originariamente soprattutto guardando le patologie, cioè le conseguenze di lesioni, negli ultimi anni anche osservando il cervello in attività con gli strumenti che consentono di farlo, come per esempio la risonanza magnetica funzionale e altri strumenti che ci consentono di visualizzare l'attività del cervello in vivo. Professor Cappa, si tende spesso a differenziare il cervello maschile da quello femminile. Anche per il linguaggio possiamo fare una distinzione di genere? Lei lo sa che dite che noi donne, quando iniziamo a parlare, non smettiamo più. Ma guardi, questo lei tocca un punto caldo, perché cioè è uno degli aspetti che destano sempre molta interesse, molto vivace, anche reazioni molto vivace. Cioè, riformulando, ci sono differenze nell'organizzazione cerebrale tra cervello dei maschi e cervello delle femmine? È una diatriba. Le dico il mio punto di vista. Sì, poi sentiamo quello del professor Moro. Che deriva dalla lettura di molti dati a favore e contro. Se ci sono delle differenze sono molto molto piccole, nel senso che a parte quello che dice lei, cioè la famosa questione se le donne parlano più degli uomini eccetera, l'unico dato obiettivo più volte replicato è che se si prende 100.000 femmine, 100.000 maschi, mediamente le femmine sono un pochino più brave nei test di tipo verbale, i maschi un po' più bravi nei test di tipo spaziale e matematico, ma deve prendere 100.000 persone, sono effetti piccolissimi. Questo è un fattore culturale o biologico, deriva da differenze che ha fatto il cervello, da differenze nella educazione, nella cultura, eccetera, eccetera. La risposta non la sappiamo, le differenze cerebrali, se ci sono, sono veramente molto molto piccole, perché ogni tanto sono usciti dai lavori, per esempio le donne facendo un certo compito linguistico attivano di più bilateralmente, i maschi più unilateralmente. L'articolo poi magari ricevono anche la copertina di una rivista importante, perché la gente, come dicevo, è affascinata da questi dati. Altro gruppo rifà l'esperimento e non trova la differenza. Quindi, cosa vuol dire? Che uno ha fatto giusto e l'altro ha fatto sbagliato? Probabilmente vuol dire che le differenze sono molto piccole, quindi che se si hanno dei campioni limitati, come succede spesso in questi esperimenti, certe volte si trova l'effetto, certe volte no. Professor Moro, secondo lei? Mi prende la sprovvista, ma guardi, secondo i linguisti non c'è assolutamente alcuna differenza. Forse conviene distinguere invece che tra maschi e femmine, tra persone che dicono cose sensate e cose che dicono cose non sensate. Questa potrebbe essere una strada. Sì. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole. Professor Moro, se è difficile per noi immaginare un uomo senza il linguaggio, credo che sia altrettanto difficile per gli studiosi risalire all'origine, ricostruire insomma il momento in cui il linguaggio è nato nell'uomo. Per la scrittura avete dei segni, come dicevano i latini, scripta manent, ma, professor Moro, verba volant. Dove le avete ripescate allora questi verba? Eh sì, per la esistenza di una, diciamo, di una paleolinguistica, manca proprio lo strumento fondamentale, cioè l'equivalente del fossile. Se noi non abbiamo niente di scritto, capire se una certa comunità umana avesse il linguaggio diventa molto molto complicato. È interessante a questo punto chiedersi, se noi fossimo degli archeologi e trovassimo una comunità umana, come facciamo a sapere che questi avevano un linguaggio paragonabile al nostro? La prima cosa che vengono in mente è di vedere manufatti complicati, architetture straordinarie, oppure organizzazioni sociali. Però se ci pensiamo bene, se un marziano arrivasse sulla Terra e vedesse un alveare, dovrebbe dedurre che le api parlano come gli uomini, perché la costruzione di un alveare o di una ragnatela, ad esempio, è complicatissima. Nemmeno gli ingegneri moderni riescono a capire e riprodurre del tutto una ragnatela, per non parlare delle strutture sociali. L'organizzazione di un formicaio è certamente molto complessa. Ma allora cosa fa la differenza? Probabilmente, questa è una semplice congettura e chiunque può avere un parere o dire il contrario, probabilmente la cosa che fa veramente la differenza è il fatto che noi esseri umani, a differenza di tutti gli altri esseri viventi, abbiamo il progresso, cioè a parità, a invarianza del nostro sistema biologico, del nostro organismo, noi abbiamo una storia. Facciamo un esempio: quando un ragno nasce e fa una ragnatela, non impara da ragni precedenti e ne fa una migliore, rifà la stessa ragnatela. Invece quando un bambino nasce non scopre la ruota a 2 anni, il fuoco a 5 e così via, inizia più o meno da dove hanno finito gli altri. Questa forma di progresso noi non abbiamo alcun motivo di non imputarla al linguaggio, ma a questo punto il linguaggio non tanto visto come una struttura geometrica, biologica, interessante, ma proprio come patrimonio della nostra esperienza che può essere tramandato. Abbiamo in linea con noi Gabriele, che ci chiama da Cuneo. Gabriele, buongiorno. Buongiorno. Parliamo un po', allora, Gabriele. Allora, io ho un'esperienza da raccontare. Ho un fratello che ha 18 anni e fa spesso uso di un linguaggio improprio e scorretto, pur avendo le capacità di utilizzare parole più corrette, appropriate, sbaglia apposta. E secondo me, adesso sentirò il parere anche dei suoi ospiti, è dovuto a una volontà di non apparire troppo in gamba nei confronti degli altri. Cioè un meccanismo di falsa modestia può essere. Ma ad esempio, Gabriele, che cosa dice suo fratello? Mi faccia una frase. Magari coniuga in modo scorretto un congiuntivo o utilizza noi in Piemonte, nel nord Italia, si usa sempre il passato prossimo, anche quando si dovrebbe usare magari il passato remoto, o verbi un po' più difficili da coniugare. E lo fa anche se avrebbe la possibilità di parlare in modo più corretto. Professor Moro, questa è una domanda per lei? Sì e no, nel senso però, che è una domanda per tutte e due. Per tutte e due. È interessante il quesito che pone, perché ci permette innanzitutto di fare una distinzione fondamentale. Cioè, un conto è la grammatica intesa come insieme di norme stilistiche, quindi ad esempio la questione del passato remoto o altre questioni. Lei si immagini, in italiano, quando noi dobbiamo usare il verbo essere come possessivo, facilmente diciamo ce l'ho. Con il C, che sarebbe dal punto di vista stilistico invece una storpiatura. Un altro conto invece è chiedersi, date tutte le parole, quali sono le combinazioni possibili? Ecco, certamente ci sono alcuni errori che non dipendono dalle norme stilistiche. Io non credo che nessuno mai si ricordi di persone che sistematicamente sbagliano mettendo l'articolo dopo il nome. Sì. Però notiamo che il fatto di avere l'articolo prima del nome non è dovuto a questioni di significato, tant'è vero che ci sono lingue come il rumeno o il basco dove sistematicamente l'articolo viene dopo il nome. Quindi a questa domanda, diciamo, ci sono due risposte. La prima è che dobbiamo distinguere da questioni stilistiche e questioni invece strutturali. E l'altra, che ovviamente la domanda pone già nel modo in cui è stata formulata, apre, diciamo, la linguistica a un campo che non è di sua competenza, cioè quello delle emozioni. Apparire, nascondersi, mostrarsi, decidere di parlare in un certo modo, questo è un campo che tipicamente di pertinenza degli studi di tipo psicologico, non certo di quelli descrittivi del linguista. Con il professor Cappa vorremmo rispondere alle tante domande che arrivano dei genitori preoccupati per il linguaggio del loro bambino. Ci sono delle, professor Cappa, i bambini parlano, ci sono delle tappe, no, nell'apprendimento del linguaggio, però ciascun bambino le raggiunge in tempi diversi. I genitori preoccupati che mi stanno scrivendo: mio figlio a 2 anni e mezzo parla poco, gli amici del mio bambino all'asilo hanno un vocabolario molto più ricco. Professor Cappa. Allora, prima di tutto rispondiamo alla seconda cosa. Una delle scoperte più interessanti, più importanti di questi ultimi anni, è che non c'è una relazione diretta tra linguaggio e intelligenza, nel senso che si può essere assolutamente ben dotati sul piano linguistico e poco sul piano delle altre capacità cognitive e viceversa. Quindi il linguaggio sta a sé rispetto all'intelligenza. Detto questo, questa famosa questione del bambino che comincia più tardi o che comincia prima, lì è proprio una questione di sostanzialmente, come sempre, di buon senso. Diciamo quelle che vengono, ci sono sui libri le tappe dello sviluppo, no? Dice, il bambino a una certa età deve avere un vocabolario di X parole, eccetera, eccetera. Sono delle medie che si riferiscono a, quindi, un gruppo grande di bambini che in media a quell'età, con un certo vocabolario, forma un certo tipo di strutture frasarie, eccetera, eccetera. È chiaro che la media è calcolata sulla base di un numero variabile di fenomeni. L'altro aspetto è la deviazione standard, la dispersione dei diversi bambini rispetto a questo parametro. Sì. A dirla semplicemente, c'è una grossa variabilità. Giorgio da Roma, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, sono un po' emozionato. Io ho una bambina di 3 anni. Quando uno è emozionato non vengono le parole, quindi lei è perfetto, Giorgio. Ah no, in questo Fede. Caso... Vabbè, mi verranno. Sì. Io, ecco, mia figlia che ha 3 anni, tra parentesi, per essere una bambina di 3 anni parla benissimo, grammaticamente, eccetera. Però come suoni, sistematicamente non riesci a pronunciare la R. Al posto della R metti sempre la L in qualsiasi parola. Pensi che io sono qua che non riesco a dire la S, eppure. Giampaolo da Mantova, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, avevo solo un quiz, ma niente di particolare, perché vorrei essere confortato leggermente, perché ho questa bambina qui, la mia secondogenita, la Bianca, che ha 2 anni meno 11 giorni, per intenderci, a parte una gestualità da vigile urbano e le solite parole mamma, papà, e nonno e nonna e zio, ecco, non mi dice altro quando sua sorella, 1 anno e mezzo, ha iniziato a parlare e ancora deve smettere. Che deve smettere. Professor K, Giorgio preoccupato per la R, Giampaolo preoccupato perché ha 2 anni la sua secondogenita, dice proprio poche parole. Ma dunque, sono 2 cose molto diverse. Innanzitutto bisogna tenere distinto, questo è un concetto essenziale, il linguaggio dalla capacità di produrre il linguaggio, dalla articolazione. Il disturbo di cui parla il primo ascoltatore è un disturbo dell'articolazione della parola, quindi qualcosa che ha a che fare con i meccanismi periferici che ci consentono di produrre il linguaggio. Detto questo, dipende dalla gravità del sintomo, nel senso che in questo caso, se si tratta di un difetto che interferisce con la comprensibilità, sicuramente una buona idea è far vedere la bambina a un logopedista, che potrebbe decidere di impostare un programma riabilitativo. Per il secondo ascoltatore una variabilità non è di per sé preoccupante, però se diciamo il ritardo rispetto che il genitore giudica rispetto ai fratelli o agli amici del bambino che hanno più o meno la stessa età gli sembra sostanziale, forse anche qua vale la pena di rivolgersi a uno specialista per una valutazione che nel 90... Chi è lo specialista, professore? Ma guardi, in questa fascia d'età direi di solito o un neurologo pediatrico o anche un logopedista che può valutare, e nella stragrande maggioranza dei casi rassicurerà il genitore dicendo ci rivediamo tra qualche mese, vediamo come va. Però è chiaro che anche, come in tutte le situazioni, bisogna essere in grado di distinguere il raro caso dove c'è un ritardo effettivo, che quindi può essere il sintomo di una malattia, oppure la manifestazione proprio di uno specifico ritardo del linguaggio che merita un intervento riabilitativo, da appunto questa situazione di variabilità che può essere anche molto importante. E adesso è il momento di andare a sentire i mercati, poi il meteo, e torniamo di nuovo qui tutti insieme subito dopo. Essere e benessere. Professor Moro, l'esposizione dei bambini a televisione, cartoni animati, eccetera, può essere un'occasione per arricchire il vocabolario e parlare quindi in modo più fluente, oppure può essere un freno? Viene da dire, dipende da cosa vedono, ma dunque in generale essere stimolati, più è grande lo stimolo meglio è. Sì. Naturalmente rispetto alla questione linguistica il discorso si complica tantissimo, cioè prendiamo ad esempio il dizionario. Sì. Un bambino, a chiunque di noi, chiunque lavori, chiunque interagisca con altre persone, conviene sapere più parole, perché riusciamo a controllare meglio la realtà che abbiamo di fronte, eccetera. Dunque, se noi guardiamo un programma di alta qualità televisiva o non e aumentiamo il nostro vocabolario, questo va bene. Naturalmente se invece il tipo di stimolo fa circolare soltanto 300 parole, questo assolutamente non è un vantaggio. In generale, comunque, l'esposizione non solo a una lingua, ma a più lingue, per un bambino è un regalo, perché questa esposizione avviene proprio in un'età in cui non si fa fatica ad apprendere una lingua. Molti dei nostri ascoltatori, certamente quelli delle generazioni precedenti alla mia, per esempio, sono nati negli anni 60, sapevano accanto all'italiano un dialetto. Sì. Ora, il dialetto non è una lingua degradata, è una lingua che ha una sua grammatica, esattamente complessa quanto l'italiano. E noi, chi di noi sa il dialetto, io ad esempio parlo il dialetto della mia città, che è Pavia, sanno che non abbiamo fatto fatica ad apprendere entrambe le lingue. Quindi immaginiamo se invece che il dialetto uno viene esposto contemporaneamente all'italiano e a una lingua straniera. Questo diventa ancora un vantaggio maggiore. Quindi direi che in generale il fatto dell'esposizione è semplicemente un fatto di qualità dell'esposizione, senza dimenticare però un fatto molto importante, cioè l'esposizione di fronte a uno schermo, oppure con un film, oppure con un DVD di qualsiasi tipo, non fa interagire. E l'interazione è uno dei meccanismi che fa partire l'apprendimento spontaneo, quindi molto meglio giocare con un bambino che parla una lingua diversa rispetto a vedersi un film in una lingua straniera. Angela, buongiorno, ci chiama da Grosseto. Senta, io ho problema ad esprimermi, no? Nonostante sappia le cose, al momento che devo parlare io mi dimentico tutto e poi non riesco a trovare al momento la parola, perché nella mia mente c'è, però non riesco io a parlare per bene. Le scappa un po' la parola. Professor Cappa, io ho anticipato che avremmo parlato anche di disturbi della parola che possono essere magari anticipatori di situazioni più severe, più pericolose. Il caso di Angela, che come va letto, capita a tutti di non trovare la parola, no? Sì, io raccomanderei la cautela prima di interpretare qualsiasi fenomeno di questo tipo come necessariamente preoccupante. Cioè, il fenomeno della punta della lingua è un fenomeno sostanzialmente normale, no? Tipicamente ce l'abbiamo tutti di fronte a parole a bassa frequenza o in situazioni di stanchezza, di stress, eccetera. Diciamo che un disturbo di questo tipo può essere un disturbo, una difficoltà di questo tipo può essere collegata migliaia di meccanismi diversi, ansia, stanchezza, stress, tutte le solite cose che si dicono. Direi che c'è da preoccuparsi, nel senso da fare ulteriori, da decidere di fare ulteriori indagini se il fenomeno diventa persistente, presente in tutte le situazioni, presente anche per parole comuni, se siamo nel contesto di qualche altra malattia o se siamo di fronte a una persona di età molto avanzata, eccetera. Queste sono tutte condizioni che magari devono portare a non trascurare il fenomeno. In tutte le altre situazioni io direi di tranquilli. Sta tranquilli. Sì. Silvio ci chiama da Torino, buongiorno. Buongiorno. Dunque, proprio parlando di lingue straniere, è proprio quello il mio problema. Io mi posso definire fluente sia di francese che di inglese. L'inglese purtroppo è quello piuttosto sporco perché l'ho imparato dagli americani, quindi faccio una fatica tremenda a capire gli inglesi e il mio problema è proprio quello. Sono fluente di inglese, parlo sveltamente, gli altri mi recepiscono come se fossi assolutamente fluente, mi rispondono altrettanto velocemente e io li casco perché devo chiedergli please say again, perché spesso sovente la mia comprehension è decisamente più bassa di quella che è lo speaking. Quindi avete due velocità differenti. Professor Cappa. Ma anche qua siamo nell'ambito di fattori che sono abbastanza individuali. Lei avrà notato il fenomeno, noi lo notiamo spesso tra gli scienziati, no? Ci sono delle persone che vivono magari da 2-3 anni in Inghilterra o negli Stati Uniti e che parlano in modo praticamente indistinguibile dai locali. Sì. Invece io conosco persone che sono negli Stati Uniti a 40 anni e continuano a parlare come il professore tedesco nel film Prima Pagina di Billy Wilder. Cosa spiega questa cosa? Sicuramente non l'intelligenza, no? Stiamo parlando di persone brillantissime, quindi non c'è niente a che fare con... È un'abilità molto specifica, è una specie di quello che si chiamava il dono delle lingue, no? Che scientificamente abbiamo abbastanza, non dico capito, ma siamo abbastanza vicini a capire che cosa ha a che fare. Abbiamo visto che per esempio è collegato alle capacità di tipo fonologico, per esempio le persone che sono più efficiente nell'imparare la fonologia della lingua, che è l'aspetto che è essenziale sia per parlare come un nativo sia per comprendere facilmente i nativi che parlano velocemente, è qualcosa che è misurabile per esempio con un test stupidissimo come la capacità di ripetere delle liste di sillabe senza senso. Le persone che sono più brave in questo tipo di compito tendono a essere quelli che hanno più facilità per le lingue. Sembra esserci proprio davvero una differenza. Quindi facile, si può già sapere prima. Beh, quasi. È ancora da studiare, però l'idea è un po' questa qua. Professor Moro, ma la linguistica come si mette al servizio della neurologia nel campo proprio relativamente al così a individuare dei segnali, dei disturbi, dei sintomi che possono far pensare a delle malattie? Sì, intanto la linguistica e la neuropsicologia hanno un servizio reciproco, cioè tutte e due si possono influenzare in modo interessante. Questo è veramente una delle cose di cui ci si è resi conto proprio negli ultimi anni di ricerca. Comunque, da una parte la linguistica può servire anche banalmente a costruire una classificazione dei disturbi linguistici. Ad esempio, se noi diciamo questo parla male, capire in che senso parla male. Nei casi precedenti che gli ascoltatori hanno portato in trasmissione, c'era ad esempio un disturbo tipicamente fonologico, come quello della R, però abbiamo visto anche altre situazioni, no? Abbiamo visto anche i casi appunto delle cosiddette parafasie, cioè di una parola scambiata con un'altra. E poi ci sono anche dei casi curiosi, per esempio l'ascoltatore che telefonava dal Piemonte, quando ha detto la frase che formulava per farsi ripetere le cose, ha detto say again. Dunque in inglese questo è un errore, no? Perché noi dobbiamo dire say it again, cioè dobbiamo mettere anche un pronome. Può essere che in alcuni casi ci siano delle patologie che per esempio selezionano alcuni tipi di parole. Naturalmente per capire quali sono i tipi di parole bisogna avere alle spalle una teoria che permetta di osservarlo. E poi però la linguistica ha un'altra funzione nella ricerca contemporanea ed è quella di permettere di studiare degli esperimenti nuovi sul cervello. Il professor Kappa prima diceva molto giustamente che la storia del legame tra cervello e linguaggio la faceva la clinica, e l'ha fatta la clinica nell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento sono state scoperte straordinarie. Al giorno d'oggi, con la collaborazione tra neuropsicologi da una parte e linguisti dall'altra, si possono invece costruire strutture artificiali e che servono per sondare le reazioni del cervello. Ad esempio si possono costruire grammatiche di quelle che non si trovano mai in nessuna lingua al mondo e vedere come il cervello reagisce. Naturalmente dal tipo di reazione possiamo anche verificare se la teoria che avevamo alle spalle è accettabile o meno. Quindi si tratta non tanto di un'influenza per così dire unidirezionale, la linguistica al servizio della neuropsicologia o viceversa, ma è proprio una collaborazione, quasi che il dominio del linguaggio diventasse un'area comune in cui specialisti di vario tipo mettono tutto quello che sanno per cercare di decifrare questa caratteristica tutta umana. Professor Kappa, che cosa c'è di nuovo e che cosa avete scoperto di nuovo e quali prospettive si aprono per nella riabilitazione? Qualsiasi malattia che colpisce le porzioni del cervello che, come dicevo all'inizio, sono molteplici, non c'è una singola area che controlla il linguaggio, determina un disturbo del linguaggio che può avere una presentazione, aspetto clinico molto diverso, cioè non dobbiamo pensare che solamente… Sono tutti uguali. No, assolutamente, non è che il soggetto non parla più, come si tende a pensare, può succedere appunto, come diceva prima il professor Moro, che ci siano disturbi molto specifici della fonologia, della sintassi, della capacità, quindi di combinare le parole, di scegliere le parole giuste. Alcuni pazienti con disturbi del linguaggio parlano in realtà molto, però parlano male. Tutti questi disturbi vanno sotto il nome di afasie. Di riabilitazione afasie si parla dall'inizio del secolo, forse anche dal secolo precedente, dico. È un aspetto della riabilitazione che è stato molto coltivato, a differenza di altri. Gli studi più recenti che hanno introdotto, come spesso accade in questi ambiti, un rigore maggiore nella valutazione dei risultati, dei fattori che predicono una buona risposta, hanno soprattutto evidenziato che è importante un trattamento intenso, cioè non serve tanto fare una seduta alla settimana per un anno, ma sembra essere molto più importante fare 5 sedute alla settimana per un periodo di tempo. Quasi una terapia d'urto. Assolutamente. Grazie ai miei ospiti, adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi vi aspetto di nuovo qui. Mi raccomando, non andate via. Essere e benessere. Ed eccoci tornati insieme. Noi continuiamo a parlare di linguaggio, ma lasciamo da parte quell'umano per parlare di piante. Le ammiriamo, le curiamo e c'è anche chi timidamente quasi sottovoce, con il timore di essere ascoltato da orecchie indiscrete, le avvicina con parole affettuose mentre se ne prende cura, un salutino, una coccola, un apprezzamento. Bene, se sino a qualche tempo fa questo poteva essere considerato un po' bizzarro, oggi la prospettiva cambia. Il merito è di una scienza che si chiama neurobiologia vegetale. È una scienza proprio che studia l'intelligenza delle impiante, l'intelligenza verde, se così possiamo chiamarla, e oggi ne parliamo per la gioia di chi non ha mai creduto sino in fondo che le piante si limitassero a vegetare. Saluto il professor Stefano Mancuso dell'Università di Agraria di Firenze, ideatore dell'INV, il laboratorio di neurobiologia vegetale. Pensate che è il primo al mondo specializzato sull'intelligenza, sulle capacità comunicative e potenziali delle piante. Professor Mancuso, buongiorno a lei. Buongiorno a voi. Professore, allora le piante ci sentono? Non è un'impressione della tribù dei pollici verdi? No, assolutamente. Le piante hanno i nostri stessi cinque sensi, potremmo dire, più un'altra serie abbastanza numerosa di sensi che mancano normalmente agli animali. E il fatto è anche facilmente intuibile. Lei pensi che le piante, a differenza degli animali, appunto, non si spostano, si muovono molto, ma non si possono spostare dal luogo in cui sono nate. E quindi non hanno a disposizione quella che è la prima e più importante reazione alle novità degli animali, che è la fuga. Quando un animale si presenta un cambiamento di ambiente o un potenziale pericolo, la prima cosa che fa scappa, poi ci pensa. Le piante non possono fare questo, quindi sono obbligate, sì, a sentire con anticipi molto grandi ciò che sta succedendo intorno a loro, in modo da adeguare il proprio corpo a questi cambiamenti. È per questo che hanno quindi una sensibilità che è molto più raffinata rispetto a quella degli animali. Dove si trova la sensibilità delle piante? Mi vengono in mente le radici che devono correre in cerca di nutrimento, certo, nel terreno. Noi abbiamo scoperto qualche anno fa che nell'apice radicale, per apice radicale si intende proprio la punta più tenera della radice, esistono un gruppo di cellule che hanno delle funzioni che potremmo chiamare similneurali, cioè che ricordano molto le funzioni di calcolo di un cervello primitivo, per quanto bisogna subito dire che le piante non hanno un cervello. Queste cellule però hanno delle caratteristiche simili e sono guidano la radice nella ricerca dell'acqua, del nutrimento, dell'aria, evitando gli ostacoli, i veleni, e insomma mostrano attraverso la risoluzione dei problemi tipici della vita vegetale una loro primordiale intelligenza. Cioè noi quando parliamo di intelligenza non possiamo pensare all'intelligenza umana, certo, o anche a quella degli animali, dei primati o degli animali superiori. Ecco, l'intelligenza è una caratteristica connaturata alla vita, per quanto spesso noi uomini tendiamo a dimenticarlo guardando a tutti gli altri organismi del creato dal nostro trono. Ma l'intelligenza è essenzialmente la capacità di risolvere problemi. È ovvio che qualunque organismo, non avendo la possibilità di risolvere problemi, si estingue e quindi non esiste. Per questo che l'intelligenza è qualcosa che noi troviamo dappertutto nella vita. Anche nelle nostre piantine di casa. Ma professor, sì, Mancuso, io volevo chiedere a lei se ci sono piante più curiose o più sensibili di altre, ad esempio quelle di appartamento, se tra virgolette si addomesticano. Cosa dicono le ricerche? Le piante sono, le piante nell'appartamento ovviamente vivono in un ambiente che non è il loro ambiente naturale e quindi come tali sono normalmente più esposte a problemi di diversa natura, patologie varie che sono tipiche proprio della vita in appartamento. Va anche detto però fra le piante di appartamento ve ne sono alcune, non lo so, non sono propriamente da appartamento, ma pensiamo alle orchidee, per esempio. Sì. Alcuni di noi li hanno anche in casa. Le orchidee, per esempio, sono delle piante che mostrano quella che potremmo veramente definire un'intelligenza straordinaria, perché durante alcune fasi della loro vita, per esempio durante il periodo della riproduzione, sono in grado di attirare degli insetti che poi servono come tramite per il polline, quindi per l'impollinazione, con dei trucchi e delle sofisticazioni veramente molto raffinate. Proprio da orchidea. Che sì, veramente da orchidea. Sono dei trucchi, mentre le altre piante, come dire, in un certo senso, sono abbastanza oneste, perché pagano agli insetti attraverso il polline, il servizio che gli insetti rendono di trasportare, attraverso il nettare, sì, che è una sostanza zuccherina, questo servizio che gli insetti fanno di trasportare il polline. Le orchidee no, le orchidee ingannano gli insetti facendogli credere che si stanno accoppiando, mentre invece stanno semplicemente trasportando il polline. Hai capito l'orchidea? Tra l'altro adesso vanno molto di moda, si trovano in tutti i fioristi, sì, ci sono delle orchidee magnifiche, mostre. Senta professore, prima di salutarla, tra me e lei che studia il linguaggio delle piante, cosa dice alle sue? O come le tocca, le sfiora? Potrebbe tutti quanti, no? Diciamo, chi ama le piante normalmente si rapporta alle piante giustamente come se queste potessero in effetti sentire. È ovvio che le piante non invece mancano di orecchie o di organi similari. Ultimamente sono state fatte delle ricerche molto interessanti, per esempio lei sa che il principe Carlo d'Inghilterra è stato più volte beffeggiato, è preso in giro perché parla alle piante. Allora proprio la Royal Horticultural Society, che è una delle più prestigiose accademie, diciamo società del mondo che si occupa di piante, per fare un piacere al principe Carlo ha fatto un esperimento, sì, e ha messo delle piante di pomodoro con accanto dei registratori che mandavano in continuo delle voci di persone che leggevano dei libri. E una di queste era la voce di una nipote di Charles Darwin che leggeva pezzi tratti da un libro dell'antenato. E il risultato è stato abbastanza sorprendente, nel senso che le piante che sono state trattate in questa maniera, quindi con la voce, hanno mostrato una crescita superiore significativamente a quelle delle piante invece a cui nessuno parlava, per la gioia del principe Carlo. E certo. Però va detto che spesso bisogna guardare a questi risultati con un minimo di attenzione, perché quando noi normalmente tendiamo a pensare che una pianta che cresce di più, cioè che è più lunga, è una pianta che sta meglio, mentre invece spesso non è così, cioè le piante, l'allungamento delle piante è una risposta allo stress, cioè le piante tendono ad allontanarsi dal luogo dello stress. Quindi meglio basse, professore, meglio bassa e cicciotta che lunga e magrolina. Sì, molto meglio, ecco, di sicuro, per le piante. Grazie professor Mancuso, buona giornata. Arrivederci. Grazie. Buona giornata anche voi che ci avete seguito. Noi torniamo come sempre domani dopo il GR delle 11. Vi aspetto su Facebook, se volete potete scriverci a essere benessere@radio24.it. Buona giornata a tutti da Nicoletta.